Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il videoclip, musica e immagini, è una forma espressiva con cui oggi abbiamo a che fare abitualmente e che spesso diamo un po' per scontata. I video musicali in realtà possono essere vere e proprie opere d'arte, possono essere una grande palestra per artisti visivi e registi che poi si cimenteranno con il cinema o con altre arti, e possono incidere in maniera determinante sulle sorti di un cantante o di una band. Oggi Destini Incrociati racconta proprio la storia di due giovani artisti che lavorano uno con la musica e l'altro con le immagini, le cui vite e carriere, quando si incontreranno, cambieranno per sempre. Siccome le storie vanno raccontate con calma e dovizia di dettagli, spesso bisogna partire da lontano. Andiamo a scoprire insieme allora qualcosa sulle origini del videoclip. Is this the real life? Is this just fantasy? Nel 1975 i Queen lanciano il videoclip di Bohemian Rhapsody. Si tratta di un singolo difficile da promuovere, data la struttura complessa del brano. Per amplificarne l'impatto mediatico, il promoter della band inglese distorce la realtà e mette in circolazione una voce. Bohemian Rhapsody è il primo videoclip della storia della musica. Niente di più falso. Ma i media, si sa, a volte immettono notizie imprecise e hanno un potere di persuasione enorme. Così questa convinzione è giunta fino a noi, ma è sbagliata. L'idea di associare musica e immagini è vecchia come il cinema. Il primo film sonoro della storia della settima arte, Il cantante di jazz, del 1927, è in realtà un film muto, intervallato da numeri musicali che sembrano lunghi videoclip. Certo, vederlo oggi fa tenerezza. Facciamo un salto di 30 anni e spostiamoci in Italia. È il 1959. Viene messo in commercio il Cinebox. Presentato come lo strumento che avrebbe cambiato per sempre l'industria della musica, il Cinebox è un jukebox che a richiesta trasmette su uno schermo un video a colori associato a un brano. Non è un esperimento destinato a un grande successo. L'impossibilità di una visione collettiva e i costi ne decretano nel giro di pochi anni il fallimento. Ma in questo breve tempo, numerosissimi artisti della canzone italiana girano dei veri e propri videoclip. Insomma, possiamo dire che i veri inventori del videoclip moderno siamo proprio noi italiani. Se verrai con me sul mio carro tra le nuvole, più avanti nel caldo del sol, sull'ultima stella lassù, io parto con te e tu parti con me. Poi negli anni 60 arrivano i Beatles con video fantasiosi e psichedelici. I Fab Four non hanno il dono dell'ubiquità, ma i fan in tutto il mondo li reclamano, li vogliono. E così, attraverso la televisione, i Beatles cercano di accontentare tutti. Una cosa simile fa Bob Dylan con il video di Subterranean Homesick Blues, inserito in apertura del film del 1967 Don't Look Back. John is in a basement mixing up the medicine. I'm on a pavement thinking about the government. The man in a trench coat badge I've laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when. Ma il primo vero videoclip, concepito e prodotto in un'ottica simile a quella dei prodotti contemporanei, viene dalla Svezia. A dirigerlo un regista che otterrà poi buoni successi anche al cinema, Lasse Hallström. La musica è quella degli ABBA. Il regista svedese, ricordando quel prodotto, ci svela l'essenza delle logiche del videoclip moderno. Avevamo deciso di usare il video come mezzo di promozione del brano, per cui le immagini dovevano sottostare alla musica. Il montaggio seguiva il ritmo frenetico della canzone. Questo è particolarmente evidente dalle prime inquadrature, con quei rapidissimi zoom che seguono i colpi di batteria. Era una cosa nuova, nella sua natura sfrontatamente commerciale. Waterloo, anche e soprattutto grazie al video di Lastrom che le televisioni di tutta Europa trasmettono, si aggiudica l'Eurofestival, una gara canora internazionale, una specie di Champions League della canzone, staccando di 6 punti la seconda, che curiosamente è Sì, interpretata da Gigliola Cinquetti. Benny Anderson, uno dei membri degli ABBA, ricorda così i tempi di Waterloo. Waterloo ci ha spianato la strada al successo mondiale. Incredibilmente, per una canzone vincitrice dell'Eurofestival, il 45 giri riuscì a entrare in top 10 anche negli Stati Uniti e in Canada. È da lì che ci siamo convinti di non essere una delle tante meteore degli anni 70, anche e soprattutto grazie a quel videoclip. Avete capito? Sin dall'inizio i videoclip cambiano le carriere dei musicisti. L'anno dopo, quando arriva il turno di Bohemian Rhapsody, ad esempio, il video porta un DJ amico di Mercury a sperimentare la prima heavy rotation della storia della musica. E il pezzo va in onda 14 volte al giorno. Prima di accostarci ai nostri personaggi di oggi, chiudiamo il nostro excursus storico con un'altra data chiave. 1 agosto 1981. Nasce MTV. E il videoclip diventa il pane quotidiano di milioni di giovani spettatori e di appassionati di musica. Con molta autoironia, le trasmissioni di MTV si aprono con un celebre brano che rievoca nostalgicamente i tempi in cui la magia della musica ascoltata alla radio non doveva temere la concorrenza della televisione. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. Negli anni 80 e nei 90 arrivano i videoclip di Michael Jackson, diretti da Landis e Scorsese, e quelli costosissimi e super tecnologici dei Duran Duran. Insomma, si afferma una nuova forma di espressione legata alla musica e nuove possibilità di sperimentazione. E in questo contesto, con questi presupposti, ci trasferiamo a Parigi e saltiamo alla fine degli anni 80. Nella capitale francese, in particolare al 18° arrondissement, si trasferisce un giovanotto dall'aria stralunata e introversa. Arriva dal tranquillo sobborgo di Versailles. Il suo nome è Michel Gondry. Michel Gondry. In quel quartiere c'erano negozi, grossisti, moltissime macchine e anche cinema. C'erano un sacco di negozi che vendevano scarpe, cibo, musica per gay. Gondry nasce a Versailles l'8 maggio 1963. Gli anni 70 in Francia, nelle periferie di Parigi, sono un periodo particolarmente propizio per crescere coltivando la passione per la musica e per l'arte. Un bombardamento continuo di suoni e immagini, di note e colori, di profumi e culture. Gondry è figlio di una pianista un po' suonata e di un compositore frustrato. Cresce immerso nella musica e si sposta nel centro di Parigi per frequentare la scuola d'arte del 17° distretto. Per sbarcare il lunario, il ragazzo trova impiego in una casa editrice che pubblica calendari illustrati per ragazzi. Infatti, Michel è un eccezionale disegnatore, creativo, dotato di un incredibile talento visivo. Inoltre, nella sua nuova scuola, incontra un personaggio fondamentale, Étienne Charry, futuro leader della sua punk rock band, Oui Oui. Suonavo la batteria già da un po' di tempo e, venendo da una famiglia di musicisti, avevo un buon feeling con la musica. Così, quando si presentò l'occasione, mettemmo in piedi questa band. Anche perché volevamo portare nella musica francese un po' di positività, un po' d'allegria. E penso che ci siamo riusciti. La musica rock e pop in Francia nei primi anni Ottanta è allineata con il resto d'Europa. Proliferano brani dance dagli arrangiamenti immediati e orecchiabili ed esperienze glam rock con costruzioni melodiche di grande semplicità. Eccezioni sono i Magma di Christian Vandea, alfieri dell'avant-prog, autori di una musica che fonde soul, jazz e rock. E i Noir Désir di Bertrand Cantat, che si formano nel 1980 e ottengono i primi successi alla fine del decennio con un alternative rock originale e impegnato. Magma e Noir Désir sono indubbiamente tra i più importanti riferimenti di Michel Gondry e de Tionc Chary nel momento in cui fondano gli Oui Oui. Joy est affamé, tourne les mouches. Le souffle du soir aime comme il tord la bouche. Il y a trois déserts à traverser encore. Et une pendaison à réussir d'abord. Quelle étrange pensée à Joy. Gli Oui Oui si formano nell'83. Gondry e Chary costruiscono il loro repertorio proprio in antitesi alle tinte cupe del dark rock francese dei primi anni 80 e al rock politicamente impegnato che spopola nella nazione transalpina. La carriera degli Oui Oui è tutt'altro che lineare, caratterizzata da infiniti cambi di formazione. Nonostante questo, e nonostante tutti i componenti della band per mantenersi siano costretti a fare altro nella vita, nel 1989 arriva il primo album, Chacun tue le mots. Sur ma tête et je sens chacune qui dégringole du toit. J'écoute siffler les courants d'air et je que cela soit bon pour moi. Je que cela soit très bon, oui, je maison, moi c'est ma maison, ma maison, ma maison, ma maison, maison, ma maison, ma maison, ma maison. Sui brani della sua band, Gondry comincia a sperimentare con le immagini. Da sempre appassionato di cultura pop, divoratore di clip di MTV, Gondry segue attentamente la scena internazionale dei video musicali. Mi piacevano in particolare i clip di Michael Jackson e quelli di Peter Gabriel, che facevano uso di molta animazione. Oggi quelle immagini sono molto influenzate dalla moda anni 80, ma le cose che piacevano a me non lo sono. Michael Jackson non fa anni 80, al contrario di Madonna o dei Duran Duran, che cercavano più di riflettere l'atmosfera di allora che di esprimere il proprio talento. Negli anni 80, inoltre, la piena legittimità al videoclip come nuova forma di espressione artistica viene sancita dall'istituzione di numerosi premi, che a livello internazionale sono assegnati a band e a registi che producono i video più interessanti e di maggiore impatto. In questo contesto, Michel Gondry inizia a progettare una completa fusione dei suoi talenti, quello visivo e quello musicale. La viva scena internazionale del videoclip lo stimola enormemente e Michel vuole farne parte. Così arrivano i primi lavori video del giovane artista francese. Se consideriamo uno dei suoi ultimi film, il delicato L'arte del sogno, in cui si racconta una strampalata storia d'amore di uno stralunato disegnatore di calendari, si può notare come molti degli episodi che costituiscono la trama del film abbiano un'origine autobiografica, segno della grande capacità del regista francese di mettersi in gioco. È così anche nei primi video. Sono piccoli film d'animazione, a volte realizzati con la tecnica della stop motion, davvero straordinari. Il video di Le Caillou, ad esempio, o di Soleil du Soir, sono gioielli di semplicità e poesia che anticipano con immediatezza e forza i tratti fondamentali di quella che sarà l'arte visiva di Gondry e anche di quello che sarà il suo cinema. Intenerisce ed emoziona la predilezione per tecniche d'animazione artigianali, che sembrano davvero far vivere di vita propria i delicati personaggi che popolano le storie raccontate da Gondry e i suoi primi videoclip. Sono tecniche che ricordano i primi straordinari film d'animazione della storia del cinema, i lavori di Ray Harryhausen, ad esempio, come Gli Argonauti e Viaggio al centro della Terra, o la rudimentale ma suggestiva animazione del gorilla nel primo King Kong del 1933. I videoclip di Michel Gondry non passano certo inosservati. Molti artisti addetti ai lavori li notano e lo contattano, ma una sola artista lo sceglie per tradurre in immagini le proprie atmosfere musicali. È un artista che viene dal nord e che lo cerca proprio mentre in radio passa spesso il singolo Ma Maison degli Oui Oui, che regala alla band di Gondry un successo che durerà poco. Gli Oui Oui, infatti, si sciolgono nel 1992. Le difficoltà a trovare un'etichetta di supporto, gli impegni lavorativi dei componenti, rendono impossibile portare avanti il progetto. Mentre Gondry è pronto a iniziare una carriera da regista, l'amico Étienne Chary inizia a lavorare come turnista per diversi famosi musicisti e ottiene un discreto successo. Nonostante la rottura, l'amicizia non viene mai meno, tanto che la band si lascia con la promessa di una futura reunion. Gondry intanto resta in attesa dell'incontro che gli cambierà la vita. Tra breve scopriremo il secondo personaggio, qui a Destini Incrociati. Destini incrociati. Oggi Destini Incrociati racconta di un incontro che cambia la storia del videoclip. Una forma d'espressione artistica che a partire dagli anni Ottanta diventa abituale per musicisti pop e rock di tutto il mondo, anche grazie alla nascita di MTV. All'inizio degli anni 90, un giovane artista francese, Michel Gondry, realizza alcuni interessanti lavori per la band in cui suona la batteria, gli Oui Oui. La sua band non è destinata al successo, i suoi video invece sì. I suoi lavori colpiscono l'attenzione di un artista che viene dal nord, dalla terra di ghiacci e vulcani. Si fa chiamare Björk. Il suo nome completo è Björk Guðmundsdóttir. È nata nella capitale islandese, Reykjavik, 40 anni fa, nel 1965. Anche lei, come Michel Gondry, vive un'infanzia in musica. Sua madre e il patrigno la spingono verso lo studio del pianoforte, ma Björk dimostra anche di avere doti canore straordinarie. A soli 11 anni, uno dei suoi insegnanti la registra mentre canta la canzone di Tina Charles, I Love to Love, e passa il nastro a Radio One, un'emittente radiofonica islandese. La registrazione viene trasmessa in tutto il paese e le procura il primo contratto discografico, un album in cui si esibisce in diverse canzoni islandesi per bambini e in rifacimenti di canzoni celebri come Fool on the Hill dei Beatles. Il disco diviene un successo in tutta l'isola. Diciamo che con grande dispiacere dei miei, subito dopo la pubblicazione di quel disco, i miei orientamenti musicali cominciarono a cambiare e mi avvicinai al punk. A cavallo tra gli anni 70 e gli 80 ho formato diverse band tra il rock e il punk, insieme a un'infinità di altre esperienze musicali, anche in direzione gothic. Sicuramente la mia musica è cambiata quando ho permesso alle atmosfere tipiche della mia isola di contaminarla. Dal momento della sua scoperta, l'Islanda è sempre stata un luogo di eremitaggio e isolamento. Il clima aspro, duro, fatto di ghiaccio e fuoco, di gelo e di vulcani, l'ha proiettata nell'immaginario collettivo come un'isola quasi metafisica, irreale. Chi vi abita cresce e vive nell'incanto dei paesaggi islandesi. Sembra portare impresso nel proprio sguardo e nel proprio modo di vedere il mondo il senso profondo di questa natura, spesso ostile e crudele. I musicisti che provengono da questa terra, come Emiliana Torrini o i Sigur Rós, sembrano cantare la bellezza e l'asprezza di questa landa circondata dal mare del nord. Il primo gruppo in cui milita Björk ad ottenere un consistente successo anche nel resto d'Europa sono gli Sugar Cubes. Il primo singolo degli Sugar Cubes, Ameli, che vuol dire compleanno in islandese, diviene un grosso hit in Inghilterra, che li fa diventare la prima band islandese ad avere successo sul continente. Successo che si estende anche agli Stati Uniti qualche mese dopo. Purtroppo la fama spesso porta con sé tensioni e problemi. Björk, inoltre, non ha un carattere molto semplice. È chiusa, dura, testarda. Così, nel 1992, i Sugar Cubes si sciolgono. Björk va a Londra e comincia a pensare a un debutto come solista. Qui l'intuito e il destino la spingono verso due incontri fondamentali per la sua carriera. Sono le prime note di Blue Lines dei Massive Attack. È una canzone che lascia la cantante islandese letteralmente folgorata. Così, dato che il produttore dei Massive, Nelly Hooper, si trova a Londra, si rivolge a lui e gli manda del materiale. nasce una fertilissima collaborazione suggestionata dall'ascolto dei Massive Attack, che si traduce nell'album d'esordio della cantante, Debut. L'album di esordio di Björk è straordinario, proprio perché è in grado di evocare con grande forza le atmosfere nordiche della sua isola natale. Non solo, riesce a suggerire visivamente un immaginario incantato, magico. L'artista capisce di avere bisogno di qualcuno che effettivamente traduca queste sensazioni in immagini. Ero seduta a casa davanti alla televisione, a riposarmi. Guardavo MTV in cerca di qualche idea per il video del singolo del mio album, che sarebbe stato Human Behavior. Così, improvvisamente rimasi folgorata dal video di una canzone di un gruppo francese, gli Oui Oui. Chiamai subito il mio manager per informarsi su chi fosse dietro a quel gioiello. Era il video di La Ville, diretto naturalmente da Michel Gondry. Nelly Hooper inizialmente è un po' perplesso all'idea di affidare il lancio di un singolo a un regista semi sconosciuto. Ma si è visto. Björk ha la testardaggine tra le sue caratteristiche principali. Così, Michel Gondry vola a Londra e incontra Björk. In quel primo dialogo si costruisce il loro destino incrociato. La vita di entrambi è destinata a cambiare e la loro carriera a decollare. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati ha raccontato le traiettorie delle vite di Michel Gondry e Björk, fino al loro incrocio, quando la cantante islandese chiede al regista francese di dirigere il videoclip del suo singolo Human Behavior. Una proposta che cambia la vita di entrambi e che ha conseguenze fortissime sul mondo dei videoclip. Ricostruiamo i dettagli di quell'incontro. All'epoca non si usavano le mail, si usava il fax. Ricordo che dopo il nostro primo incontro, in cui si era creata immediatamente grande sintonia, avevamo deciso di lavorare a distanza. Per cui ci scambiavamo un sacco di fax con disegni, bozze. La sommergevo letteralmente di fax. Michel mi ha colpito perché mi sembrava incredibilmente entusiasta, pieno di energia, un po' stralunato ma molto preciso, e aveva un fascino a prima vista insospettabile, un po' nello stile di Woody Allen. È un po' nevrotico, dà sempre l'impressione di poter collassare entro 5 minuti, ma poi non accadeva. Dalle voci dei protagonisti emerge quello che si può comprendere anche da una semplice visione del videoclip che Gondry realizza, e cioè che due mondi perfettamente combacianti si sono incontrati e incastrati. La stravaganza, il surrealismo, la fragilità, l'ironia di Michel Gondry, la sua capacità di dare corpo a sogni, mantenendo una vena malinconica di fondo, si sposano perfettamente con le atmosfere gotiche, ancestrali, fiabesche della musica dell'islandese Björk. Il video è un capolavoro insuperato che fonde animazione, effetti speciali artigianali e poetici e live action. Il videoclip di Human Behavior, che trae ispirazione dalla fiaba Riccioli d'oro e i tre orsi, riceve 6 nomination agli MTV Music Awards del 1994, compreso quello come miglior regia a Gondry e quello per il miglior videoclip. Non ne vince nemmeno uno, sconfitto quell'anno in quasi tutte le categorie da Steam di Peter Gabriel. Nonostante l'insuccesso agli MTV Awards, il video diventa un successo clamoroso e segna il decollo della carriera dei due artisti. Björk, infatti, riceve una sorta di marchio visivo riconoscibile in tutto il mondo. La sua musica viene associata a quelle atmosfere e da qui l'artista può partire per la sua scalata al successo, scalata che ne fa ben presto l'artista islandese più famosa nel mondo. Seguono 9 album in studio, più varie raccolte, tour affollatissimi, l'esordio al cinema con Lars von Trier, In Dancer in the Dark, esperienza che rimarrà isolata nella carriera della cantante per via dei violenti dissapori con il regista danese che la spingono a chiudere per sempre con il mondo del cinema. Negli anni successivi, soprattutto, arrivano altri 7 video con Gondry, tutti straordinari. Ogni lavoro che faccio con Michelle è davvero prezioso per la mia musica, perché aggiunge sempre qualcosa di fondamentale alla percezione che la gente ha dei miei pezzi. È un artista straordinario e ha cambiato il modo di concepire i video musicali. Bjork ha ragione. L'approccio di Gondry è innovativo e fa immediatamente proseliti. Il videoclip non è più un semplice veicolo commerciale per il brano, non ne rimane vincolato al livello di ritmo ed immagini. Al contrario, con Michel Gondry diventa arte e determina il tono e le emozioni con cui il pezzo viene percepito dal grande pubblico. Subito dopo di lui, artisti come Spike Jonze, Chris Cunningham o David Fincher adottano lo stesso approccio. Lo stesso Spike Jonze, famoso per aver diretto film come Essere, John Malkovich e Il ladro di orchidee, racconta così l'influenza che Gondry ha avuto su di lui. Ho esordito a metà degli anni 90 con videoclip per i Beastie Boys e per i Rem. La visione di Human Behavior mi ha veramente cambiato la prospettiva. Fino a quel video o si raccontava una storia, come aveva fatto Landis con i video di Michael Jackson, oppure si seguiva semplicemente il ritmo del pezzo. Gondry ha cambiato tutto. Naturalmente, oltre ai riconoscimenti dei colleghi, arrivano anche le richieste da parte degli artisti che vogliono lavorare con Gondry. Così, Michelle, negli anni 90, lavora con tutti i maggiori musicisti della scena pop rock internazionale. Sono un privilegiato. Ho avuto la fortuna di lavorare con tutti i miei artisti pop preferiti, a parte Michael Jackson, e questo mi rende enormemente felice. Questi artisti sono nomi come Massive Attack, Beck, Chemical Brothers, White Stripes, Paul McCartney e i Rolling Stones. La collaborazione con Bjork, che era più aperta di me nei confronti dell'arte contemporanea, mi ha insegnato delle cose del mio lavoro di cui perfino io non m'ero accorto. Ho cominciato a vedere il mio lavoro come una stretta collaborazione con l'artista. Ho sempre cercato di essere utile al gruppo con il videoclip piuttosto che essere utile a me tramite il gruppo. Partendo da quest'idea, non ho mai più sentito dei limiti creativi. Oggi ho acquisito una certa libertà, ma ho ancora qualche frustrazione. Per esempio, quando i Rolling Stones mi hanno proposto un videoclip, non potevo certamente lasciarli perdere, ma ero senza idee. Non ne sono uscito troppo male, ma non è il mio lavoro preferito. Anche Gondry, alla fine del 2000, arriverà al cinema, realizzando alcuni straordinari film come Se mi lasci ti cancello e Human Nature, grazie a un altro incontro, quello con lo sceneggiatore Charlie Kaufman. Ma questa è un'altra storia. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.